ricordo che la biblioteca provinciale ha una sede in via Mendola 5 e da un anno a questa parte organizza gli incontri con l'autore, l'autrice oppure questi dibattiti in varie sedi diverse distribuite nella città. Abbiamo il centro Trevi oppure a disposizione alcune volte la sala Giuliani qui presso il Cristallo e altre volte siamo al liceo classico, quindi vi arriveranno le cartoline che spediamo di solito, vi mettiamo in rosso la pubblicazione. Comunque ecco, ci stiamo muovendo in questa maniera per catturare anche il pubblico e distribuire meglio le nostre iniziative in giro per la città. Resta il fatto che la biblioteca è una sede in via Mendola 5 dove però facciamo anche delle cose lì. Ne approfitto sempre per questo breve spazio per promuoverle. Una di queste è un corso gratuito dove occorre però preiscriversi perché lavoriamo su un numero chiuso e ristretto di persone, ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, quindi un'ora solo, per insegnare come utilizzare la piattaforma dei giornali digitali. In poche parole, noi col nostro sito possiamo permettervi, dandovi una password e spiegandovi come funziona, permettervi di leggere il giornale, l'Alto Adige, la Repubblica, oppure anche il giornale coreano, il quotidiano nazionale della Corea del Sud, per dirvi ci sono 50 e più lingue, giornali quotidiani in 50 più lingue, anche dal vostro telefonino o computer. Chiaramente servono alcune informazioni per accedervi e uscire da questo sistema, sono molto semplici, però è chiaro che la prima volta o le prime volte è necessario l'aiuto di un bibliotecario che vi accrediti a questo sistema. Se avete piacere e interesse, ogni venerdì alle 15.30 siamo in biblioteca via Mendola 5 e ci mettiamo a disposizione. Vi chiediamo solamente, se interessati, di avvisarci il giorno primo o i giorni precedenti, perché abbiamo bisogno di costruire un gruppo e di rimanere fissi su un numero preciso di persone, no? Però siccome va avanti tutto l'anno ci sono occasioni varie. Poi spiegheremo anche come funziona il catalogo unico, perché le varie biblioteche della provincia hanno formato un unico catalogo, quindi è possibile vedere cosa c'è in tutta la provincia e farlo arrivare alla biblioteca più vicina a casa. Quindi anche questo è un nuovo servizio da qualche settimana che necessita di una piccola spiegazione, in maniera che ognuno sia libero anche da solo di scegliersi quello e di trovare quello di cui ha bisogno. Una cartolina le riceverete, se vi iscrivete alla biblioteca ricevete gli inviti direttamente a casa con queste cartoline. In ogni caso vi anticipo l'appuntamento di lunedì prossimo al centro Trevi, si intitola Petto in fuori, pancia in dentro, è un libro che abbiamo scritto come biblioteca provinciale raccogliendo le memorie di due meranesi che hanno appunto vissuto in prima persona la seconda guerra mondiale girando l'Europa e la Russia e i Balcani, come ben sapete. Ecco, sono memorie di Bruno Zitto e di Bruno Gemmi, e è un libro, il secondo volume dedicato alla memorialistica, il primo si intitolava Mi ricordo, sì mi ricordo, e si trattava delle memorie di Bruno Bertoldi, a cui è stata data una croce di benemerenza l'altro giorno dalla prefetta Margiotti. Ecco, questi sono i nostri appuntamenti prossimi. Intanto ringrazio Marco Pugliese, il professor Marco Pugliese, che questa sera torna qui con noi, ci porta avanti in questo percorso sull'Europa, un titolo appunto intrigante, Povadis Europa, e poi il sottotitolo è United States of Europe. Questa può essere una domanda aperta, vedremo quali saranno gli sviluppi e quello che ci racconta in questo percorso. Il professor Pugliese, lo conoscete, è già stato ospite della biblioteca, ci ha spesso aiutato in alcuni percorsi sempre di carattere storico, a volte legati più al territorio, questa volta siamo invece in una dimensione più ampia, sia cronologicamente che da un punto di vista geopolitico, ma ci aiuta anche con queste conferenze a così costruire una collezione tematica precisa, quindi dei libri e delle proposte che noi cerchiamo di portare anche nei luoghi dove organizziamo le iniziative, quindi se avete piacere potete anche prendere in prestito i libri direttamente da da qui senza tornare necessariamente in biblioteca, anche se poi, lo ripeto, ci fa sempre piacere avere una vostra visita in via Mendola 5. Marco, ti lascio la parola e grazie ancora a tutti voi. Allora, io intanto vi ringrazio per essere qui e andiamo in microfono. Sì, va? No. Sì, ma va. Devi solo tenerlo. Sì, più vicino. Allora, io vi ringrazio di essere qui presenti e questa è una seconda conferenza, la prima l'avevo tenuta la settimana scorsa e riguardava di più l'excursus, quindi l'iter storico che ha generato l'Europa, l'idea di Europa. Questa invece si focalizza di più sul discorso odierno, cioè dove sta andando l'Europa. E in apertura ho scelto un mio articolo, non tanto perché è mio, ma più che altro perché proprio fa capire un attimino come funziona da un punto di vista geopolitico e politico il rapporto tra i vari stati d'Europa. Questo articolo che io, come vedete, ho scritto a giugno, qualcuno di questa rivista, che è un po' il Centro Nazionale di Geopolitica, Centro Studi di Geopolitica e Relazioni Internazionali, un sito anche abbastanza interessante, mi ha dato della Cassandra, perché purtroppo avevo intuito da alcuni, non perché sia io sia particolarmente intelligente, ma semplicemente leggendo alcuni report che mi sono stati tradotti dall'inglese, si andava a intuire dove l'alto commissario, la Mogherini, avrebbe portato il nostro paese, la politica europea, eccetera, eccetera. Quindi, come voi sapete, l'anno scorso noi abbiamo piazzato, alcuni giornali hanno detto il colpo da 90, cioè abbiamo piazzato l'alto commissario europeo, e praticamente sarebbe il super ministro degli esteri europeo, l'abbiamo fatto diventare italiano, perché siamo riusciti dopo vari tentativi, e sembrava che questa mossa spalancasse anche al nostro paese di scenari diversi. Non è stato proprio così, e diciamo che addirittura alcuni stati come l'India, sapete che l'Italia e l'India hanno avuto dei problemi bilaterali e unilaterali, anche se fosse più unilaterale, riguardo il caso famoso dei Marò. E in questo caso pensate che l'India si è messa in contatto con l'Inghilterra e non con l'Italia, e ha voluto proprio parlare con l'ex ministro degli esteri europeo, una certa ministra inglese, non importa, non so con il dettaglio, però ha preferito parlare con l'Aston, che era il vecchio ministro, piuttosto che parlare con la Mogherini, perché secondo l'India la Mogherini sarebbe stata di parte. Essendo un alto commissario europeo, questo atteggiamento non dovrebbe esistere, perché che sia lussemburghese, italiana, svedese, eccetera, non dovrebbe cambiare. In realtà in questo caso ha pesato molto. Come ha pesato, e qui mi riallaccio a un'altra politica di uno Stato comunitario, quindi della UE, in Africa, ha pesato il nostro ruolo anche in Niger. L'altra volta avevo fatto un accenno, questa volta spiego un po' meglio. Il Niger, per chi non lo sa, è uno dei più grandi esportatori di uranio dell'Africa. Il problema del Niger è però che il suo uranio da circa 40 anni non se lo può gestire da solo, lo deve vendere a un'azienda europea, che però è francese, è europea però è francese. Questa azienda europea a sua volta lo vende allo Stato francese, ma essendo un'azienda di Stato, praticamente se l'autovende la Francia. Che cosa significa? Significa che la Francia ha tutto da perdere se l'Unione Europea mette mano in Niger, cioè se come Unione Europea noi ci presentiamo in Niger e diciamo costruiamo delle infrastrutture, è un po' quello che stanno facendo i cinesi per strappare contratti migliori, noi vi forniamo le scuole, e voi in cambio ci date una fornitura di uranio pari a tot. Il problema è che il nostro pari a tot sarebbe onesto, nel senso noi vi costruiamo le infrastrutture e voi ci date il corrispettivo in uranio. Se la mettiamo in dollari, in pratica, noi spendiamo 1 miliardo di dollari in sviluppo, e voi ci ridate circa $1 miliardo di uranio. Praticamente siamo in equilibrio, anzi ci andiamo comunque a guadagnare un po', però non... Adesso la Francia in realtà spende $5 milioni e ne guadagna 500, perché i giacimenti di uranio non sono assolutamente, le norme di sicurezza sono bassissime. E purtroppo chi abita, chi lavora lì, dura poco, perché o si ammala o decide di scappare. E scappa dove? Scappa nel centro dell'Africa, quindi nel Sahara. E poi sono le stesse persone che noi ci ritroviamo di riflesso sulle coste libiche e poi sulle coste italiane, greche, eccetera, eccetera. Quindi questo è un primo problema. Poi ho messo il Marocco, cioè poi nel mio articolo avevo parlato poi di Marocco, Somalia, vabbè, il Niger abbiamo già parlato. Perché qualcuno dirà, perché il Marocco? Perché in realtà il Marocco ha dei problemi con l'Italia a livello bilaterale. Quindi Italia e Marocco, per delle questioni ancora legate agli anni Ottanta, c'era ancora Craxi al governo, hanno delle cosettine, insomma, a livello diplomatico che non funzionano, e quindi anche da un punto di vista di interesse commerciale noi col Marocco facciamo una gran fatica a stringere contratti. Quindi se dobbiamo vendere dei camion, faccio un esempio, ne avevano bisogno perché il suo paese è in costruzione, quindi aveva bisogno di betoniera, abbiamo delle difficoltà. Tutto questo va a vantaggio di Germania, Francia, eccetera. In Somalia invece siamo intervenuti direttamente, poi ho anche un piccolo filmato, siamo intervenuti quando? Nel 1992 e 93, con la missione ONU. L'ONU è intervenuto nel 92 con degli osservatori, poi la situazione è esplosa, sono intervenuti gli americani, a livello unilaterale però, hanno detto interveniamo noi perché siamo più bravi. Poi nel 93 i nostri ispettori italiani presenti in Somalia hanno detto, se vogliamo portare qualcosa, ed è la nostra ex colonia, la Somalia, forse è meglio che ci mandiamo anche noi qualcuno. In tutto questo l'Unione Europea al tempo era ancora la CE, contava poco, però a livello di politica comune arrivavamo dalla prima guerra del Golfo, quindi l'Europa in quel momento era stata unita, nessuno Stato europeo si era messo di traverso. Nessuno aveva detto Bush sta sbagliando, no, ma in realtà è Saddam Hussein, che tutti siamo andati lì convinti che fosse la cosa giusta. La Germania era ancora abbastanza deboluccia perché si era appena unita, noi siamo rimasti sulle nostre posizioni atlantiche, la Francia uguale, la Gran Bretagna uguale. E c'è un perché nello stesso momento vendevamo noi, francesi e inglesi, un sacco di armi in tutto il Medio Oriente, quindi non fare la guerra agli stessi iracheni, vendevamo i razzi, gli RPG. Quindi era tutta una questione anche economica in quel momento lì. Quello che fa specie appunto è che nel 92 in Somalia siamo intervenuti, e il problema è che, non so se ricordate la missione Ibis, come è andata a finire, hanno mandato i militari di leva, doveva essere una scampagnata dopo il filmato, quindi i ragazzi che all'aeroporto ridevano e scherzavano, e poi ci siamo sempre paracadutisti, quindi si presume che fossero i corpi insomma più preparati, però gli hanno detto in caserma, chi vuole farsi una gita in pratica faccia un passo avanti, un po' come è stato poi in Kosovo in parte. In Somalia invece la situazione era diversa, perché noi non eravamo mal visti, erano mal visti gli americani. Quindi il primo periodo è andato bene, anzi i ribelli somali, che sono gli stessi da cui partono, dove adesso sono le basi dei famosi pirati dei Marocchi, vedete è tutto collegato, e le basi in Somalia praticamente sono importantissime per tutta la pirateria dell'oceano indiano. Anche questo per esempio non si dice mai. La Somalia da quel punto di vista ha disintegrato la propria economia, perché ha un'economia di pirateria, cioè in pratica le persone fanno quello di lavoro, chi vive sulla costa. Chiaro che noi, poverette, non è che sono obbligate, perché non è che ci sia molto da fare in Somalia, però anche questo problema, che prima non c'era, abbiamo anche portato questo problema qui. Le nostre truppe però, bisogna dire la verità, in quell'occasione si comportarono in maniera abbastanza egregia, cioè ritirarono tutte le armi, fecero una sorta di quello che fecero gli americani in Italia dopo il 45, dissero, no momento, ci sono i partigiani, ci sono ma i fascisti armi ne avevano poche ormai, e i partigiani più che altro che avevano le armi, raccolsero tutte le armi delle bande partigiane per evitare che scoppiasse una guerra civile, con l'accordo del governo, l'accordo di tutte le forze politiche, Togliatti in primis. Ecco, in Somalia i nostri comandi attuare una politica di quel tipo, cioè ho i carri armati, non li uso, voi mi date le armi, noi vi diamo da mangiare. E poi la seconda fase sarebbe dovuta essere una sorta di piano Marshall, quindi ogni anno vi diamo degli aiuti, voi in cambio però dovete fare delle riforme democratiche. Questo era i signori della guerra somali, siccome erano stati tagliati fuori, perché ricordatevi che lì la popolazione gioca un ruolo importantissimo. E i signori della guerra somali controllano l'acqua. Nel momento in cui tu gli porti l'acqua, il loro potere va a cadere e quindi la popolazione non li protegge più. Prima fase. Quindi nella prima fase siamo andati abbastanza bene. Poi è successo un pasticcio e il signore della guerra principale con cui noi ci eravamo accordati è stato individuato nel centro di Mogadiscio e gli americani, senza dire niente a nessuno, hanno deciso di provare a farlo fuori, in pratica. Sono intervenuti, hanno sbagliato, hanno perso un elicottero con dentro dei militari americani che sono stati davanti praticamente alle TV mondiali seviziati, uccisi, eccetera, eccetera. Da quel momento anche il nostro contingente si è trovato in difficoltà estrema. Noi avevamo un po', ha richiamato un po' la seconda guerra mondiale, noi avevamo l'esercito schierato in un posto abbastanza pericoloso e questo casus belli in pratica ha dato modo alle bande di riprendere le armi in mano, di non riconsegnarle più agli italiani, e quindi ci siamo ritrovati con i somali che ci sparavano addosso e hanno perso l'aiuto dei militari di Lenin per una missione che non doveva essere di guerra, non doveva essere nemmeno di pace in realtà, ma è proprio di ricostruzione vera e propria. A quel tempo l'Italia, a differenza di quello che è successo alla Siria, dove abbiamo risposto, pochi sanno, ma dopo l'attentato in Siria il nostro esercito ha risposto a tutto quello che è arrivato dopo in maniera anche abbastanza forte, quindi con i carri armati c'è una battaglia famosa, la battaglia dei ponti, dove i nostri reparti hanno riconquistato la zona. Dopo la Siria sono cambiati gli ordini. In Somalia invece abbiamo preso armi e bagagli e siamo tornati in Italia perché la situazione internazionale non lo richiedeva. Tutto questo preambolo per farci capire che a francesi e inglesi però di quello che noi avevamo fatto in Somalia o dei nostri militari caduti non è interessato granché, perché comunque da un punto di vista economico la Somalia in quel momento e tuttora non ha grande rilevanza. Quindi il ragionamento è stato: se gli italiani vogliono sistemare la Somalia, se la sistemano da soli. E noi ce ne siamo andati, non avevamo la forza politica e nemmeno la forza economica nel 93 per stare lì. E quindi riaggancio un altro discorso, un discorso economico. Dal 93 al 98 sono state create le basi di quella che poi diventerà l'Unione Europea. Nel 2002, passando all'euro, ci siamo convinti tutti di far parte di una confederazione, che non è però politica, è solamente economica. Quindi noi abbiamo la stessa moneta, ma abbiamo differenti capi di Stato, differenti ministri degli esteri. Quando sentite parlare di Consiglio europeo, quando si riuniscono tutti i consigli degli esteri, tutti i ministri degli esteri, si riuniscono tutti e non prendono decisioni comuni, ognuno dice la propria. La Mogherini dopo dovrebbe fare il riassunto e andare a parlare di politica europea. È accaduto due volte, una volta nei riguardi di Putin, che però anche lì ci abbiamo rimesso anche noi dal punto di vista economico, noi eravamo i primi fornitori di mobili, eccetera. E in secondo luogo è successo in Libia, nel senso che, non so se voi sapete, ma in questo momento se leggete il giornale troverete il nome di Bernardino León, che è un diplomatico spagnolo, ma che simpatico, però che non sta facendo un grande lavoro, che dovrebbe sistemare i due governi, quello di Tobruk è quello di Tripoli, cioè è un anno che stanno cercando di fare questo lavoro. I libici, che non hanno governo, però non si sa perché riescono a ottenere sempre quel che vogliono ultimamente, hanno detto: non vogliamo gli italiani perché, essendo i nostri ex colonialisti, magari hanno degli interessi economici. In realtà non l'hanno detto i libici, ma è il suggerimento dei consiglieri militari presenti a Tripoli e a Tobruk di Francia da una parte e Gran Bretagna dall'altra. Quindi in Libia abbiamo la Francia, la Gran Bretagna, che giocano un ruolo lì sul territorio. Noi abbiamo le infrastrutture dell'ENI, eccetera, eccetera, e ne giochiamo un altro. E abbiamo una cosa abbastanza strana, cioè tre basi, due della NATO e una inglese a Creta, di fronte alle coste libiche, che non vedono nulla. Cioè tutto quello che succede nel mare, in quel mare, sappiate che ne succedono ogni giorno. Se uno seguisse tutte le questioni geomilitari gli viene male, perché nel mare, no, di fronte alla Libia, quindi nel nostro Mediterraneo, tra navi turche senza insegne che portano armi in Libia, navi tedesche che passano, non si sa dove vadano. C'era una nave tedesca nel canale di Sicilia due settimane fa, è stata scortata da una nostra nave militare, era senza insegne, però non batteva bandiera tedesca, poi è stato fuori che fosse un guasto. I media non ne hanno parlato tanto, è stato un trafiletto su TG.com. Non si capisce bene dove questa nave andasse e cosa portasse, soprattutto. Anche queste navi svedesi che sono sempre vuote quando sono intorno alle acque libiche. Non si capisce perché una nave cargo che fa quel giro dovrebbe arrivare a Suez. Quindi è andando verso Suez la rotta, passa vicino alla Libia. L'altra rotta è più larga, quindi quando è vuota, in teoria dovrebbe tornare dall'Oceano Indiano, non andare. È proprio una questione commerciale, perché si carica a Suez la nave o si carica in Egitto, quindi non si capisce che cosa queste navi trasportino, e soprattutto non si capisce l'Unione Europea cosa voglia fare con uno Stato che è a 800 km dalle coste italiane, che sta mettendo in grossissima difficoltà la Grecia, che non aveva bisogno sicuramente di essere messa in difficoltà ulteriormente, e non si capisce quindi il gioco totale, proprio generale, dell'Unione Europea. Abbiamo delle dichiarazioni di politici europei come la Merkel, che l'anno scorso diceva: dobbiamo tenere tutto chiuso perché sennò non riusciamo a gestire il flusso, e quest'anno invece ha detto, due mesi fa, è meglio aprire perché sennò è un grande caos. Però ha aperto a metà, cioè io mi prendo i profughi certificati e bollinati e voi vi gestite tutto il resto. Il problema è che i profughi certificati sono pochi, perché la Siria non è uno stato da milioni di libri. Il problema sono tutti gli altri, che poveretti non arrivano da situazioni più felici, non arrivano da situazioni più felici. Però o si fa un ponte umanitario, quindi un ponte aereo direttamente con gli stati europei, e ognuno fa la sua parte, cioè l'Italia non può accogliere tutto il Nord Africa, perché proprio non abbiamo nemmeno la Spagna, ma neanche la Francia, che infatti chiude la frontiera. Allora, questo panegirico geopolitico in realtà fa capire quanto l'idea di Unione Europea e Unione di intenti sia un attimino andata a cadere, paradossalmente, a Unione fatta. Cioè nel 2002 abbiamo creato l'Unione Economica, e nel 2015 stiamo a discutere il perché non riusciamo a intervenire a livello anche solamente politico, perché la Mogherini non ha funzioni militari, non può spostare le truppe, non è un ministro della difesa. Però è imbarazzante come non si riesca a trovare una soluzione. Questo è il primo punto di tutto il mio discorso. In questo articolo io non avevo fatto altro che praticamente analizzare dal punto di vista italiano, perché mi era stato chiesto, e noi, questa è una cosa che volevo farvi notare, noi siamo presenti militarmente in Bosnia, Marocco, Medio Oriente in generale, perché lì ci sono stati staterelli, pezzi, Malta, Egitto, India, Pakistan, Iraq, Afghanistan, Emirati Arabi, Bahrain, Qatar, Georgia, Somalia, Oceano Indiano, Filippine e Maldive, Libano, Repubblica Centrafricana, Sahel e Mali, Niger, Mozambico, Israele e Gaza, Sarajevo, Kosovo e Libia, a difesa di impianti petroliferi ci sono i nostri militari, non lo dice nessuno, Corno d'Africa, perché Corno d'Africa quello dai da tantissimi anni. In più abbiamo operazioni di mandato NATO, quindi in Afghanistan abbiamo due missioni diverse, anzi sono tre missioni diverse che ha l'Italia. Mandato NATO, che sono i militari che vedete in televisione, poi abbiamo un mandato ONU, che non li vedete quasi mai, hanno le mostrine blu e vanno a controllare i confini, e poi abbiamo dei reparti speciali che sono sotto il comando della NATO, ma in realtà degli Stati Uniti, che operano in assoluta libertà, cioè quei militari lì non prendono ordini dai nostri comandi ma dagli americani, quindi fanno tutte quelle operazioni militari che non vengono dette, quindi quelle sottoterra, non alla luce del sole. In più abbiamo la nostra flotta in tutto il Mediterraneo, in appoggio a quella spagnola, in appoggio a quella greca, ci sono anche le nostre navi, a spese nostre però, andrebbe sottolineato. E inoltre la nostra aeronautica addestra i piloti di praticamente mezza Europa, nel senso che tutti i piloti del nord Europa fanno la scuola in Italia. Noi abbiamo un fortissimo centro addestrativo militare aeronautico dagli anni 30 che ce l'abbiamo, e molto apprezzato anche dagli americani, i nostri piloti sono molto apprezzati tantissimo, e però d'altro canto la NATO ci ha detto: voi siete molto bravi, vi gestite voi questa cosa qui. Quindi quando sentivate le polemiche degli F-35, Eurofighter eccetera eccetera, i nostri politici in quel caso lì non la raccontavano tutta, perché l'F-35 non è veramente, ho letto due libri che parlavano di quell'aereo, non è il problema del computer di bordo che è un aereo difettoso, quella è una grande sciocchezza, è un aereo, pezzi di documentari che hanno fatto vedere in TV o pezzi di articoli che ho letto di qualche politico, in realtà sono riferiti alla fase di testing dell'aereo. Come tutti gli aerei ci sono, è un progetto dell'F-35 degli anni 90, quindi è stato testato in 10 anni. Se tu devi mettere dei caccia funzionanti non puoi impiegarci un anno, quindi le fasi di test e di sperimentazione hanno avuto degli incetti, degli intoppi, dei problemi, questo è ovvio. Il problema grave però era che noi ormai, e qua la decisione è stata politica nel 1996, la prima, quindi abbiamo un governo di sinistra, c'era Prodi, e poi è stata rimessa in gioco e rafforzata nel 2003 e abbiamo il governo di destra, quindi, e la commissione militare parlamentare era uguale, quindi il governo ha solamente detto va bene così, destra e sinistra uguali identici. Il problema dell'F-35 però è che nel 2009 andare a raccontare no, noi non facciamo più parte del programma, significava che tutti gli F-35 che venivano costruiti in Europa non venissero più costruiti in Italia ma in Gran Bretagna, quindi tutte le commesse delle nostre fabbriche sarebbero andate in fumo. Adesso si può discutere, è un'arma, ok, però era quello il concetto. Allora i nostri politici avrebbero dovuto dare un piano alternativo rispetto a quello, dire no, noi facciamo una riconversione industriale civile come hanno fatto i francesi in parte, ci occupiamo di treni, ok? Ci occupiamo di treni, non vogliamo gli aerei, paghiamo il dazio, però la nostra industria, siamo un paese industrializzato, riparte dal civile. Questo non l'ha detto nessuno. Il piano industriale è rimasto tale e quale. Addirittura chi polemizzava in televisione poi firmava nelle commissioni interparlamentari. Quindi questa è la situazione. Perché? Perché ci sono interessi economici enormi, in meccanica, eccetera, è sempre lo Stato quello, quindi da una parte toglie, dall'altra no. E se avete notato, poi ci occupiamo della difesa aerea di Austria, sarà contenta la Claude, Slovenia, Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca, in convenzione con la NATO. In convenzione con la NATO significa che è a spese nostre, totalmente, cioè praticamente noi siamo lì come NATO, però gli aerei li abbiamo forniti noi, sono della nostra aeronautica, i piloti sono uno italiano e uno della Cechia, l'addestramento lo fanno in Italia, a spese nostre, perché loro, poveretti, hanno anche delle piste non adatte per atterrare a certi aerei, quindi è molto complicato. Progetto Eurofighter, quindi un progetto tutto europeo. Il caccia Eurofighter è un progetto totalmente europeo, ma anche lì un progetto europeo che ha tenuto fuori la Francia, perché la Francia ha un altro aereo, il Rafale, che è un aereo simile, anzi un po' più basso, aspetta, ne intendi più di me, un po' più basso di... Ecco, molto simile, anche le stesse alette, se li guardate, però i francesi cosa hanno fatto? Si sono fatti il loro aereo e lo hanno venduto in mezzo mondo. Il progetto Eurofighter doveva essere un progetto di difesa europea, Eurofighter. Lo so, le armi, non dovete fraintendere, il mio non è un discorso militarista, il mio è un discorso di utilità, nel senso che se l'Europa vuole veramente contare qualcosa, se a livello militare non ha unione di intenti o anche un esercito comune, saremo sempre qua a fare questi lavori qui. Quindi, e in tutto questo, uno dei paesi che riceve più soldi dalla NATO, perché ha le basi americane, non è l'Italia ma è la Germania, che ha una fortissima flotta a livello aeronautico, però la tiene a casa sua, e ha un ingente riarmo negli ultimi 12 anni la Germania. Pochi lo stanno dicendo, ma la Germania si è molto riarmata negli ultimi anni, ha comprato un sacco di armi, ne ha venduto un sacco, ne produce tantissime e ne produce più di noi. Quindi li ha scambiati anche per i mondiali di calcio, sembrerebbe, quello con l'Arabia Saudita. Quindi inglesi, tedeschi e francesi hanno fatto la stessa identica politica, cioè non che noi siamo santi, però la stessa identica situazione che avevamo nel 1914, quindi con lo scoppio della prima guerra mondiale, ce l'abbiamo nel 2015, perché in realtà io ho dato questo titolo, proprio l'ho dato in latino, perché così, Quo Vadis Europa, perché purtroppo, a me dispiace, però l'ultimo barlume di Europa Unita che abbiamo avuto in Europa proprio è stato per Romano. Noi non abbiamo più avuto unità di intenti, abbiamo avuto unità di intenti nel non pestarci i piedi. Quindi l'Italia adesso, io da una volta sento dire parlare del colonialismo italiano, ma la lezione non arriva dai somali, che poveretti, se ci dicessero questa è la casa nostra, arriva da stati come l'Inghilterra, che ha ancora il Commonwealth in piedi, arriva dai francesi, che in Mali ha bombardato l'anno scorso perché era una ex colonia. Cioè noi nella ex colonia abbiamo avuto un mandato di 10, quando abbiamo perso le colonie, un mandato di 10 anni, questo se lo dimenticano. In Somalia siamo dovuti andare via nel 1958, siamo dovuti andare via, sono rimasti interessi italiani, ma la Barilla era rimasta, non erano rimaste le fabbriche di mine, siamo dovuti andare via, però gli ispettori dell'ONU hanno in maniera certosina controllato che le infrastrutture distrutte durante la guerra con gli inglesi fossero ricostruite. Praticamente quello che noi avevamo ricostruito, che gli inglesi hanno fatto saltare per aria e oggettivamente non occorreva, solo che da un punto di vista strategico era bene annientarci del tutto in Africa orientale, abbiamo dovuto pure ricostruirlo dopo la guerra. A noi è andata anche bene perché abbiamo risollevato la nostra economia, c'è stato il boom economico anche grazie a quel discorso che spesso viene ignorato. In Libia un po' la stessa cosa, poi è arrivato Gheddafi, ci ha fatto andare via del tutto perché lui proprio gli italiani non li poteva vedere, e così in Somalia e in Etiopia, paesi che dopo però sono rimasti sono rimasti in orbita inglese, non sono rimasti da soli, sono rimasti in orbita inglese fino al 1992, dove siamo tornati noi però con un altro spirito. Quindi anche qui, quando appunto si parla di colonialismo italiano, bisognerebbe fare dei distinguo: uno, perché è durato 45 anni, 50 anni e non 500; due, perché la nostra presenza in quei luoghi lì è stata da un punto di vista civile molto forte, nel senso che abbiamo portato parecchi coloni, però alla fine è anche abbastanza effimero, perché la lingua non è nemmeno rimasta. Cioè, se voi andate in Somalia non è che vi parlano in italiano. Questo, secondo me, a livello culturale, questo vuol dire, perché in Niger la lingua è francese, i bambini quando vanno a scuola in Niger hanno la rivoluzione francese, da noi in Somalia, cioè da noi dico, da noi nel senso quando eravamo in Somalia, non è rimasto Garibaldi, cioè non è stata fatta una pulizia culturale, perché erano state previste delle scuole per chi era nato lì. Poi vabbè, ci hanno messo la scusa di razze, non razze, perché eravamo anche nel 1938, manifesto della razza. Però ad esempio, l'altra volta l'ho detto, Balbo, Italo Balbo, lui si era speso tantissimo per dare la cittadinanza agli arabi e sarebbe stato il primo governatore bianco a parificare autoctoni e italiani, e non era contro i matrimoni misti, Italo Balbo. A tal proposito, però, per farvi capire la situazione, questo qua è un video che ho trovato abbastanza raro, che ha come protagonista Indro Montanelli. Siamo negli anni 60, per farvi capire ancora come in Italia e come in Europa, attenzione, il discorso del colonialismo non era del tutto superato, nel senso che l'europeo, in questo caso Montanelli, giudicava gli africani come dei... Avete presente il buon selvaggio, no? Quindi considerato quasi un bambino da poter trattare come si vuole. Ecco, Montanelli in questo caso, quando gli chiedono della sua moglie, guardate come risponde. Considerandola oggi con la mia maturità d'oggi, un'avventura parla dell'avventura del Piozzi senza fine, ma immaginiamo un ragazzo di 24 anni messo al comando di una banda indigena con 100 uomini neri, lui solo bianco, buttato all'avventura in quella guerra che di combattimenti ne erano molto pochi, non voglio passare per un gran guerriero affatto, ma insomma furono un anno e mezzo a cavallo di cavalcate in mezzo a questa natura selvaggia, in mezzo, ripeto, combattimenti ben pochi. E dicono anche che lei aveva una moglie, diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano ufficiali da loro. Sì, pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza milena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre, che mi ha accompagnato insieme alle mogli degli Ascari, cioè queste mogli degli Ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in questo infinito dell'Abissinia, dove nessuno sapeva da perché arrivava, e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa, mi portava la biancheria pulita. Ti hai detto tranquillamente di aver avuto una sposa di 12 anni, e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni, dicendo ma in Africa queste cose si fanno. Vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne, date queste due affermazioni. Ma scende, guardi, sulla violenza, nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni. Non è vero. Cresciuto e vissuto durante il fascismo, inoltre, ma non è perché era il fascismo, era proprio un discorso europeo. Questo secondo me proprio col fascismo non c'entra niente. Anzi, io consiglio di leggere un libro, Mussolini il razzista riluttante, perché Mussolini all'inizio della sua carriera era tutto quanto razzista, anzi considerava i nazisti degli effeminati, esatto, e diceva l'esatto contrario, cioè per lui erano sciocchezze. Poi il discorso della razza ce lo siamo portati, perché poi noi italiani, nel paradosso, quello deve far capire la nostra mentalità, nel paradosso noi anche in regime nazionalista diventiamo esterofili, cioè è il campione mondiale Mussolini di esterofilia, perché ha preso una teoria bislacca di gente tipo come Fritz Klein, medici fuori di testa. In tutto questo mi riaggancio al colonialismo tedesco, perché noi conosciamo il colonialismo italiano, i gas. Ho visto una manifestazione ridicola a Brunico di qualche gruppo politico pantirolese che accostava con i cartelli di Prite. Dovrebbero leggere che cosa invece nell'Africa occidentale e in Sud America hanno combinato i tedeschi. Cioè, già nell'Ottocento c'erano delle teorie strane in Germania. Perché non proviamo a mischiare le teorie genetiche che sono nate proprio sulla sperimentazione umana? Lo stesso, uno dei medici più famosi, Mendel, nazista, che sembra che poi sia scappato in Sud America, dove c'è un paese, in Cile, dove sono tutti biondi e alti, perché era una colonia tedesca, parlano in tedesco, non sanno lo spagnolo, se ne fregano altamente, perché tanto hanno tutto l'oro nazista probabilmente sui conti correnti, e tuttora è una comunità rispettata, stanno per fattacci loro, con immagini svastiche, e nessuno dice niente. In Argentina è pieno di questi cosi. E sì, poi lì ci sono delle teorie di fantastoria particolari, però nazisti lì ne sono scappati, li hanno trovati, quindi è certificato. Gli israeliani su quello hanno cercato di fare piazza pulita, poi non sono riusciti del tutto, però ci sono arrivati. E ecco, da quel punto di vista hanno provato a creare dei villaggi selezionati a livello scientifico nell'Africa nera. Quindi provavano a mischiare le donne da un villaggio all'altro, provavano a dare tot medicine, cioè anche loro hanno la loro, perché non vengono mai nominati, perché dopo con il nazismo chiaramente una nazione che combina quel guaio, purtroppo per loro, perché è anche brutto, i tedeschi di adesso hanno superato quella fase, hanno fatto un percorso molto lungo che è durato tutto il Novecento praticamente, e sono arrivati alla conclusione che sono praticamente tornati indietro. Infatti in Germania hanno veramente fatto un requilisti culturale. Qualcuno dice che in Italia questo requilisti, ma anche in Francia, non sia stato fatto, ma perché secondo me da un punto di vista culturale, io sono di questa teoria, il fascismo è un movimento politico, non è né esoterico né magico. Il nazismo è un movimento esoterico / magico. Erano convinti di essere i discendenti del mondo di Agard, le teorie della terra cava, che al polo nord ci fosse il buco e tutte queste teorie di fantascientifiche. Quindi è un discorso veramente, veramente difficile. Erano atei, quindi odiavano tutto quello che era religione, si consideravano pagani, era tornato il culto di Odino. In Italia non ci siamo rimessi con Zeus, Giove, fare quei lavori. Abbiamo preso la cultura romana perché è il nostro periodo migliore, siamo rimasti un po'. È il nostro periodo migliore, l'abbiamo esaltato. Quindi il fascismo ha fatto quello. E ha ripreso dei nomignoli un po' taroccati da D'Annunzio, ad esempio è inventato D'Annunzio, poi si sono presi la famosa M di Mussolini tra la sua firma, cioè tutta simbologia, però la simbologia politica. Mussolini appunto nasce come socialista, amico di Nenni, si sdraia sui binari quando andiamo in Libia. Quando l'Italia va in Libia è Pascoli, quello della cavallina, che scrive sul Corriere della Sera: è giusto che abbiamo le colonie, perché comunque l'Italia è un grande paese e le colonie le deve avere. Mussolini è sdraiato sui binari che non vuole che partano i nostri soldati, perché prima di tutto andavano messi a posto le classi operaie. Quindi, se fossimo adesso, un politico di sinistra sarebbe con Mussolini, non con Pascoli. Pascoli sarebbe considerato un intellettuale da salotto, un intellettuale che non ci mette la faccia. Pascoli in quel caso lì invece non è scuola, Pascoli è dolce. Eh beh sì, se venivano ammazzati i libici, lui li fregava, lui era europeo. Quindi vedete che anche la nostra stessa storia spesso è stata presa, ci sarebbe da fare solo una conferenza su questo aspetto di Giovanni Pascoli, perché tutti lo consideriamo, era molto più protofascista lui, se la vogliamo dire tutta, nello senso d'annunzio, se non vogliamo essere precisi a livello culturale. Ecco, questa è postuma, perché ovviamente Pippo Franco non c'era, però questo è come, per farvi capire una cosa importante, quando il colonialismo europeo si è affacciato in Africa, l'Italia è stata sanzionata. Le sanzioni erano state una bufala, nel senso che l'Italia fondamentalmente non fu sanzionata, perché essendo Stato europeo, il primo ministro francese disse: è uno Stato europeo, hanno diritto ad avere questo posto, alla Società delle Nazioni, il discorso l'aveva fatto, hanno diritto. Anche gli inglesi ci hanno dato una pacca sulla spalla, ci hanno solamente detto: siete i soliti fessi, dovevate fare le cose in maniera più furba, come facciamo noi. Però la solidarietà bianca, quindi europea, in quel caso lì venne fuori. Adesso questo fa un po' ridere, però in Italia le sanzioni in pratica le abbiamo prese così. Sanzionami questo, amica tenace, cioè era una canzone del ventennio, in teoria contro l'Inghilterra, che ci aveva la perfida Lione, ma in realtà non era così, perché Mussolini, che scriveva sui giornali inglesi, anche questo spesso viene dimenticato, Mussolini scriveva di continuo sui giornali inglesi, specialmente alcuni giornali molto testati, importantissimi, prima di attaccare l'Etiopia fece tre passaggi. Primo passaggio, gli etiopi avevano strizzato l'occhio ai giapponesi perché si ispiravano al modello giapponese, quindi il Negus era un matto, perché lui diceva di essere una specie di dio. Tutta la storiografia di una certa parte italiana che vuole far sembrare il Negus come una sorta di rivoluzionario, sono tutte cose proprio inventate di San Pianta, perché il Negus era un personaggio tribale, non gliene fregava niente delle donne, trattava peggio di Montanelli in realtà le donne, perché una di lì dice: io vorrei comprare quella. Sì, va benissimo, non c'è problema. Quindi proprio la sua, e soprattutto era uno sterminatore di islamici, era uno sterminatore di islamici, perché lui era cristiano copto, e noi siamo andati in nome anche di questo, perché Mussolini aveva fatto le foto con la spada dell'Islam, eravamo così. Addirittura, adesso non ho tempo, però c'è un interessante, lo farò vedere in un'altra sede, un interessante documentario dove c'erano fascisti e arabi molto uniti, tutto originale. Quindi noi siamo andati anche lì per quello, quindi siamo addirittura messi da quella parte lì. E dicevo, in Etiopia, ecco il Negus, che appunto, per qualcosa, io sento dire un rivoluzionario, assolutamente no, era un conservatore totale. Cioè, doveva rimanere tutto così come mille anni prima lui era il re dei re, Negus Negesti. E se aveva fatto l'occhiolino a Hirohito, che era l'imperatore giapponese, che si considerava figlio di, cioè dio per i giapponesi, poi andava a Londra, si vestiva all'occidentale. E in questo passaggio i giapponesi, che volevano essere europei più degli europei, dissero: noi coi neri, questo è fuori di testa, e interrompono completamente le relazioni diplomatiche, perché il Negus aveva chiesto appoggio navale, siccome l'Etiopia da questa parte, no? Cioè l'indiano, la flotta giapponese era in avanzamento, aveva detto: guardate che c'è uno stato che ci vuole aggredire, ci date una mano. E l'imperatore giapponese ha alzato bandiera bianca, sono problemi vostri. Secondo problema, l'Inghilterra fece un po' la voce grossa, mise alcune navi intorno al canale di Suez, come per dire a Mussolini: stai attento, perché se ti chiudo il canale di Suez tu non vai più da nessuna parte, ti tocca fare tutto il giro dell'Africa e noi ti bombardiamo. Però se non ci rompi le scatole in Siad, in Sudan, eccetera eccetera, ti puoi tenere l'Etiopia, tanto in Etiopia non c'è nulla, che ci frega. Quindi Inghilterra a posto, siglati anche gli accordi di Pasqua tra Inghilterra e Italia, quindi nel Mediterraneo la flotta inglese e la flotta italiana potevano andare dove volevano. Ovviamente tutto questo, la Grecia non contemplata, gli spagnoli, c'era Franco, ma non valevano nulla. Quindi flotta italiana e flotta inglese potevano fare quello che volevano, si facevano gli accordi direttamente con l'Inghilterra. Cioè, se uno aveva un problema commerciale nella Terra del Fuoco, c'era una base inglese e dovevi accordarti con la regina, se no non ti potevi muovere. Quindi era questo il mondo degli anni 40, è quello che anche uno come Montanelli, che riferimenti poteva avere? Noi consideravamo più civilizzati gli inglesi di noi, anche quando eravamo fascisti, per noi il modello era quello inglese, erano loro il numero uno, non gli americani. Gli americani erano visti un po' rumorosi, cacciarosi, gli inglesi invece il loro stile, la loro eleganza, la battuta, i nostri comandi andavano a studiare cosa facevano i comandi inglesi. E devo dire la verità, ci apprezzavano un po' anche loro, perché quando Balbo morì, per due giorni gli inglesi non bombardarono postazioni italiane in Libia e sganciarono oltre 1 milione di volantini in memoria del maresciallo Balbo. Quindi comunque c'era una sorta di rispetto. Stessa cosa al Duca d'Aosta, che sull'Ambalagi praticamente trovò la sua fine, però fu rispettato. Quindi tra gli eserciti correva buon sangue, però noi eravamo a limitazione, quindi credevamo, i francesi meno di noi, però anche il loro modello era quello inglese. Gli americani erano inglesi fondamentalmente, cioè erano una costola dell'Inghilterra, quindi tutto il mondo girava intorno all'Inghilterra. E paradossalmente però con quel modello lì era più unito, nel senso che il modello italo-tedesco, perché c'erano due Europe nel 40, c'era il modello italo-tedesco e il modello non democratico, quella è un'altra fesseria, il modello capitalista occidentale, che è quello che aveva vinto, ed era Francia, Gran Bretagna, dove c'erano libere elezioni, però l'economia contava parecchio, quindi le lobby economiche erano molto importanti, armi eccetera eccetera. Quindi avevamo due Europe in campo e queste due Europe si scontrarono, dando origine alla seconda guerra mondiale. Andò male entrambe, perché anche i vincitori verranno fagocitati dal pensiero americano, perché poi scoppiò la guerra fredda e il pensiero diventò diverso, diventò oriente occidente, ma non più l'oriente giapponese, diventò l'oriente sempre europeo, perché l'Unione Sovietica non può essere considerata uno stato, era uno stato enorme extra europeo, però la mentalità, cioè Marx è nato in Germania, tutta la dottrina sovietica si basava su quelle teorie lì, il pensiero era occidentale, quindi era occidente contro occidente con visioni diverse di governo. Quindi siamo passati dall'asse, quindi dal fascismo in realtà, perché il fascismo è stato il primo, il nazismo è venuto dopo, e soprattutto a livello politico il nazismo, cioè Hitler non è che prevedesse un Parlamento, Mussolini ci ha provato, Camera delle corporazioni, il Senato, cioè è stato molto lento, non ha mai, ha sempre tenuto il re, la diarchia, no? È interessante però che quando l'asse stava vincendo la guerra, e ovviamente nel 40-41, pochi lo sanno, furono fatti degli studi da delle commissioni, come avrebbe dovuto essere il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale con la vittoria dell'asse. Però l'Europa, che tornava a essere il centro del mondo totale proprio con l'asse, però era divisa in vari stati. Sapete qual è? Venivano smembrati tutti gli stati, c'era un grande statone che si chiamava Europa federale occidentale, Spagna e Francia, poi c'era un altro, poi la Germania, l'Italia, e un altro statone all'est, con inglobata anche la Grecia. L'Inghilterra per i fatti suoi, perché nella mente dei tedeschi e degli italiani all'inizio l'Inghilterra avrebbe dovuto mantenere il proprio impero coloniale, perché l'impero coloniale non si tocca, cioè non so se rendo la mentalità, l'impero coloniale te lo sei guadagnato e non si tocca. Infatti Churchill, che era un europeo abbastanza convinto, e disse: però l'Italia, anche togli tutte le colonie, in fin dei conti loro se le erano anche sudate, cioè lui sarebbe stato per farcele tenere, eh? Ci voleva togliere la Sicilia, però la Libia però sarebbe rimasta, la Sicilia sarebbe diventata una specie di Malta, una grande Malta. E per un capriccio di Churchill, perché a lui piaceva tantissimo Agrigento, dove era stato varie volte, oltre che Como, poi a Como andava a fare i fatti suoi, però ad Agrigento, vedete, la storia in questo caso l'ha proprio fatta il vincitore, perché tutta la dottrina errata su certi capi occidentale noi l'abbiamo fatta, l'abbiamo data per buona, perché il nazismo ci diceva: cosa c'è di peggio? È ovvio che sia meglio l'altra cosa. Quindi comunismo da una parte e il capitalismo dall'altra, il nazismo l'hanno spezzato in due. In realtà, perché Hitler non aveva ragionato a livello geopolitico, perché quando Hitler andò contro i russi, un certo Rudolf Hess era andato in Inghilterra con il suo aereo per cercare di tenere l'Inghilterra dalla parte dei tedeschi. Infatti una velina del ministero degli esteri tedesco in quel periodo là disse: a primavera marceremo tutti contro i russi, e in quel tutti c'erano italiani, francesi, tedeschi, inglesi e perfino americani. Lo stesso presidente americano, quando gli proposero alcune cose, non rimase del tutto indifferente. Aveva proposto una conferenza alle Azzorre, lui nel 40 aveva promesso all'Italia enormi porzioni di colonie, aveva promesso di far contare di più nell'ONU del tempo fra Italia e Germania. Come vedete, il mondo però veniva sempre spartito dalla parte, e noi europei però non è che eravamo uniti, noi per comodo stavamo insieme, non ci sentivamo uniti, perché un tedesco e un italiano anche alleati non si sentivano parte dello stesso progetto. E un giapponese, eravamo alleati con i giapponesi, ma in realtà i giapponesi proprio era proprio una questione addirittura culturale completamente diversa. Loro però si sentivano occidentali, avevano fatto un patto con due superpotenze, dicevano: insomma, qualcosa va. Quello che poi del tutto secondo me farà cadere il sogno europeo non sarà tanto la guerra fredda, sarà l'atteggiamento di un paio di stati, e sarà un personaggio in particolare che remerà contro fino alla morte, De Gaulle. L'Europa delle patrie, lui proprio con questa frase ha messo la pietra tombale, ha detto: io sono europeo, noi abbiamo vinto, hanno vinto la guerra, siamo tutti col giochino dell'alleanza, sono per un'Europa che funzioni però delle patrie. Da lì non ci siamo spostati, nel senso che anche oggi secondo me siamo in un'Europa delle patrie, perché ci sono degli stati che vorrebbero ma non possono, che sono gli stati, mi dispiace per loro, ma gli stati del nord Europa non riescono a livello politico a fare squadra per vari motivi. Per una questione culturale, perché sono molto diversi anche dall'Europa centrale. L'Europa centrale, se uno pensa all'Ungheria e all'Austria, sono già diversi rispetto agli europei del nord. Sono danubiani, quindi hanno un ragionamento, un'idea di Europa, è il cuore dell'Europa, si è combattuto. Purtroppo il ragionamento l'hanno fatto anche le varie battaglie. La Finlandia, come un nemico mortale, ha i russi. Non gliene frega niente a un finlandese di Lampedusa, è proprio secondo me un altro concetto. Noi li abbiamo tirati dentro a pezzi, perché poi uno all'euro, l'altro non all'euro, l'Inghilterra è stata fuori perché loro hanno il Commonwealth, hanno altre cose, noi e i francesi ci siamo ritrovati nel 90 a gestire un po' la questione. Andreotti aveva ragionato in maniera abbastanza intelligente, aveva detto: state attenti perché la Germania, una volta che si unisce, vorrà tornare a essere leader. Nessuno gli ha dato retta, perché la Germania nel 90 era quasi messa peggio che nel 45 da un punto di vista economico. ha fatto una serie di riforme ed è riuscita ad arrivare, però tutto quello che ha fatto l'ha fatto per l'Europa o per se stessa? L'ha fatta molto per se stessa, perché purtroppo col discorso della Grecia lì abbiamo perso una grandissima occasione. Ci vuole un'economia unica, noi siamo tante economie diverse, e poi si fanno dei paragoni strani: l'economia italiana, l'economia greca non possono nemmeno stare nella stessa frase. La Grecia ha il PIL delle Marche, con questo ho spiegato tutta l'economia greca, non produce nulla di industriale. La Spagna anche, non è che sia messa tanto meglio. Noi abbiamo un'economia simile a quella francese, un po' sotto a quella tedesca, ci frega molto il debito, cosa che in Germania hanno risolto in un altro modo, però la nostra economia, la nostra industria, non è che venda meno di quella tedesca. Attenzione, siamo concorrenti però. Quindi chiaramente tu, un concorrente, cosa vuoi fare con un concorrente? Non puoi fare una politica europea se hai, non so, le taroccature delle auto, la famosa taroccatura. Se l'avesse fatta Fiat, io lo dico da 2 mesi, a ogni persona su Facebook, a ogni santo su Facebook che dice ma tanto barano tutti, io sottoscrivo. Diresti la stessa cosa se l'avesse fatto Fiat? No, diresti, gli italiani sono mafiosi e Fiat deve chiudere. Lo diresti se l'avessero fatto gli inglesi? Però anche noi, perché anche noi abbiamo questa autocondizione, una tolleranza verso tutti. Ridiamo indietro obelischi, siamo di continuo, non abbiamo una gran tolleranza nei nostri confronti, nel senso che dovremmo essere da dire sì, noi abbiamo sbagliato, però anche voi non avete. Quindi la Germania andrebbe aiutata, secondo me, in questo caso, perché fare la Volkswagen nel 2016, ci sono delle previsioni catastrofiche, la Germania andrebbe aiutata, ma io mi metto nei panni dei consigli di amministrazione di Peugeot o di altre case. Noi dovremmo fare squadra contro la Nissan, contro la Toyota, e invece ci siamo fatti fregare dall'agenzia dei fumi americana, perché gli americani hanno detto calma, questi stanno vendendo un sacco d'auto. Marchionne ha capito la situazione 4 anni fa, infatti se voi prendete il progetto 500 è completamente diverso, perché sennò anche noi finivamo nel calderone, perché noi non è che siamo considerati. Quindi la Volkswagen praticamente si è talmente rispecchiata su se stessa con questo gioco delle vendite, che si è ritrovata da sola. Nessuna casa automobilistica europea ha detto sono europei, diamogli una mano. No, la Peugeot ha detto non vogliamo più vedere neanche una Volkswagen con quel difetto in strada, perché dobbiamo fare una class action, dobbiamo denunciarli, disgraziati. Certo, qua mi viene da dire, siamo tutti un po' rosiconi, perché la Germania è arrivata a un certo punto di economia. Il problema purtroppo sono sempre nati dal centro Europa, a me si dice purtroppo, però la prima guerra mondiale lì, la seconda guerra mondiale lì, la guerra economica dagli Stati Uniti, poi ce la siamo portati in Europa. La Germania lì avrebbe dovuto, a mio parere, farci capire che è veramente cambiata, se volete la mia opinione personale. Cioè avrebbe dovuto dire, i nostri colleghi europei sono in difficoltà, noi abbiamo un'economia locomotiva, però la vogliamo mettere a disposizione dell'Unione Europea, perché l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna ci hanno tagliato il debito nel 91 e la signora Grecia non ha voluto i soldi indietro delle schifezze naziste, e a Marzabotto non abbiamo avuto più, abbiamo chiuso anche quelle questioni lì, con famiglie che ancora piangono quello che è successo a Marzabotto. Noi abbiamo chiuso perché dovevamo dire no, ma noi gli abbiamo perdonato. Noi abbiamo fatto un processo che non è stato fatto, a me spesso dirlo, dall'altra parte, e lo vedi proprio nell'europeo medio, la ripicca nei confronti di Volkswagen. A ti sta bene, ci hai detto fino all'altro giorno, e noi qua, e noi su, e noi giù, e noi là, e ti beccano a imbrogliare. Pensate che il discorso della CO2 è un discorso da 4 soldi, perché ci sono 9 milioni di veicoli Volkswagen che girano nel mondo, quindi che non vengono a dire che non è inquinante, come ho sentito dire. Ripeto, l'avesse fatto un'altra azienda, la questione sarebbe stata, la reazione europea non c'è stata, e questo è clamoroso, che un'azienda europea rischi di fallire e gli europei ridono di questa cosa perché vendono di più. Questo è clamoroso, però purtroppo la Germania non ha giocato di squadra, non ha giocato di squadra negli ultimi 5 anni perché ha fatto gli improperi. Vi ricordate la Merkel con Monti, la Merkel con Hollande, la Merkel con Cameron? Ha fatto spesso gli improperi. Noi abbiamo un'economia di crescita, noi abbiamo questo, noi abbiamo quell'altro, intanto però passavamo noi per quelli che dovevano fare i compiti. Ripeto, l'Italia compiti non ne ha dovuti fare perché non ha chiesto soldi. Questa cosa deve essere chiara all'italiano: noi non abbiamo chiesto soldi alla Banca Centrale Europea, li abbiamo dati per salvare la Spagna, il Portogallo. A noi ci hanno messo nei PX l'Italia, e ci sono italiani che ci credono, ci hanno messo nei PX, cioè degli stati da 4 soldi, Irlanda, poverini, non sono da 4 soldi, parlo economicamente, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Siamo stati accumulati, abbiamo il quarto apparato industriale del mondo, siamo nel G8, G7, siamo la sesta, settima economia, dipende dalle variabili, e siamo stati messi come il Portogallo. E ci sono italiani che dicono: beh, ma è vero, c'è la crisi, non funziona niente. Sì, però sali su un autobus costruito in Italia, quello deve far riflettere. Vendi gli aerei, vendi le navi da turismo, i super transatlantici da turismo. Cioè, noi negli ultimi anni anche la nostra autocoscienza nazionale è stata bombardata, se ci fate caso, su tutti i giornali, anche da questo punto di vista. E adesso sto parlando del caso italiano, ma voi siete italiani, quindi non faccio proprio da europei. Io credo che quasi nessuno si sia sentito salvato dall'Unione Europea. Nel 2008, in piena crisi, se fossimo stati l'Europa vera, avremmo detto: calma, noi abbiamo risolto la nostra situazione, noi abbiamo il mercato interno, noi siamo l'Unione Europea, abbiamo l'euro. Il problema è delle banche americane, non è delle banche europee. Questo non è stato fatto, anzi, ci sono stati stati come la Spagna. Io li prendo ad esempio perché sono stati proprio, secondo me, presi, sfruttati e rilasciati. Peggio dei greci, perché se saltano gli spagnoli, salta proprio tutto. Uno Stato a cui vengono prestati 950 milioni di euro praticamente in 3 anni e ne dà 450 al Real Madrid e al Barcellona, luogo del fallimento, perché sapete, come dicevano i romani, che lo stadio stia pieno e così la gente comune non se ne frega. Ecco, questo deve far, quindi questo deve far pensare, e i politici spagnoli si sono proprio impastati le mani, in realtà peggio addirittura dei nostri, perché i nostri, tra mille difetti, certe sciocchezze, se non altro per furbizia, per machiavellismo, chiamata come, non le hanno fatte né i governi di destra né i governi di sinistra. Concludendo, che cosa viene fuori? Viene fuori che secondo me ancora ci dobbiamo affidare a libri di questo tipo, nel senso che forse dovrebbero essere letti nelle scuole, perché l'idea di Europa e di cittadino europeo deve partire proprio dalla scuola, partire dai giovani. Ho fatto vedere Montanelli, perché io stesso non sono più Montanelli, ovviamente sono nato nello stesso paese ma sono nato molti anni dopo, quindi come Montanelli non ragiono, però da quella partenza dobbiamo arrivare a una partenza nuova. Ho purtroppo delle remore perché i ragazzi giovani, molto giovani, la mia generazione, la mia Tardo Erasmus, la generazione Erasmus che ho preso ad esempio l'altra volta del presidente Letta, che ha un po', sono quei 45enni che sono nati e cresciuti con il sogno europeo e che però una volta che sono andati nei posti di potere non si sono resi conto che la base non funzionava e i piani alti non ci stavano, quindi la degenerazione degli illusi. Ho delle remore perché la generazione nuova invece, chi ha dai 18 ai 24, 25 anni sta tornando all'Europa delle patrie. Infatti i movimenti estremisti stanno crescendo praticamente in tutta Europa con la scusa della recessione economica. Guardate che nel 22 è stato uguale, negli anni 30 è stato uguale, perché Hitler è andato al potere perché in Germania il tedesco medio non aveva il pane, era un disastro. Mussolini è andato al potere perché in Italia c'era una gran confusione, pur che avevamo vinto la guerra, ma anche lì sarebbe da discutere. Quindi il sogno europeo, insomma, deve partire per forza dalla scuola, che attualmente è fuori, la scuola italiana è fuori, ve lo posso garantire, dall'interno è fuori dal progetto europeo, ma come tutte le scuole europee non c'è nemmeno una sinergia. Abbiamo sistemi scolastici completamente diversi, programmi completamente diversi. Tre pagine dedicate all'Unione Europea, tre pagine sui libri di geografia di medio e superiore, e così un po' in tutta Europa. Sapete quali sono gli stati, anche perché gli conviene, gli stati dove invece c'è più spinta? Il Lussemburgo, beh, però loro sono così, hanno 10.000 cose, quindi il Lussemburgo, il Belgio, che il Belgio si voleva dividere in 40 stati fino a 2 anni fa, poi di colpo sono rinsaviti, e il Belgio e un po' anche l'Olanda, sono quegli stati là che stanno cercando di portare avanti un discorso europeo. Gli olandesi lo portano avanti dagli anni 70, della verità, la loro rivoluzione, la rivoluzione arancione olandese, che nel calcio diventerà l'arancia meccanica famosa, ma anche nel mondo culturale, questo voleva, l'unione di intenti europea. Quindi anche tenere i capelli lunghi, vi ricordate? Quello era il 68 europeo, è diverso da quello italiano. Quello italiano l'hanno completamente politicizzato, quello europeo era proprio un'unione di intenti europea, anche questa cosa è studiata poco e malissimo. Il 68 noi siamo a pensare sempre a quello italiano, in realtà quello italiano che prendeva spunto da quello europeo, che era uno stato un po' prima, Francia e Olanda, partiva proprio da questa rivoluzione, però culturale, non violenta, culturale, questa modifica di pensiero, questa unione di intenti. E la Germania in quel periodo là aveva fatto molto, perché era divisa, e quindi la sua parte ovest, disperata, si era buttata, perché piuttosto che stare spaccata in due avrebbe preferito essere in un'Europa unita. Purtroppo questo discorso si è molto perso. Forse un politico come Kohl, la Merkel, non è che lei abbia delle colpe, perché anche pensare solo con la Merkel sarebbe sbagliato il motivo. La Merkel, lei è arrivata lì, si è trovata una situazione, lei è tedesca e fa gli interessi del suo Stato. Io non è che mi sento di condannarla più di tanto, perché ognuno poi ti darà qualche pulmino, quindi non è che puoi immolarsi con la popolazione tedesca che le direbbe scusa, ti immoli per gli europei, ma loro per noi cosa fanno? Quest'estate, la scorsa estate, con i greci però abbiamo toccato il fondo. Anche noi italiani siamo diventati un po' arrogantelli, il nostro primo ministro ha detto vi abbiamo dato anche noi soldini, ce li dovete dare indietro. Cioè, questi atteggiamenti da maestrini non possono aiutare l'integrazione europea. Anche se filosoficamente noi possiamo esserci già arrivati, perché a livello filosofico, culturale, noi siamo europei. Se tu vai negli Stati Uniti, vai in India, ti senti europeo, italiano o europeo? Questa cosa nell'Ottocento già c'era. Siamo rimasti come un po' lì. Quindi l'augurio per il futuro è che si continuino a studiare i processi antichi. Vi faccio l'ultima metafora, poi chiudo. A me il discorso Europa, dall'Impero Romano in poi, mi fa venire in mente Asimo. Cioè Asimo, sapete, lo scrittore di fantascienza? Lui, a parte che non era uno scrittore solo di fantascienza, ma era un fisico, quindi non era una persona da quattro soldi. Ecco, Isaac cosa ha fatto? Ha teorizzato questo impero galattico, che non era altro che l'impero romano. Lui era un grandissimo conoscitore della cultura latina. L'ha preso e ha detto perché è decaduto, che è la grande domanda. E da lì ci ha fatto i libri di fantascienza, cioè qui questo mega impero che a un certo punto per forza di cosa decade, perché alla fine i protagonisti si inventano una teoria che possa predire il futuro a livello matematico, le provano tutte, nasce uno che è un mutante, viene fuori un disastro. In realtà il messaggio del libro è se non c'è l'idea di impero galattico, tu puoi avere le navi migliori, puoi essere milioni di mondi, ma prima o poi il tuo pensiero decade. Quindi decadi tu come stato. L'impero romano è decaduto perché non ci credevano più. Chi glielo faceva fare a uno nato a Roma di andare a combattere sul Reno perché arrivavano gli Unni? Mandava qualcun altro, delegava qualcun altro. I primi romani non avrebbero mai perso contro gli Unni, erano più organizzati, più forti, tatticamente su un altro pianeta, eppure poi hanno perso per questo motivo qui, perché non ci hanno più creduto a livello mentale. Noi abbiamo avuto come collante cristianesimo dopo la fine dell'impero romano, che ci ha portato fino a oggi, E oggi avevamo pensato di sostituire quella radice con una radice politica. Noi cosa abbiamo pensato? Siccome il mondo andava in un certo modo, nel 2000 abbiamo detto vabbè, facciamo una moneta unica e tutto verrà da sé. Ci sono state le torri gemelle, c'è stato tantissimo altro, e quindi quel discorso è rimasto a metà. Ecco, a me l'Europa mi dà l'idea di un discorso a metà, con noi dentro che continuiamo a lavorarci dentro, però in realtà non stiamo andando. E appunto questo articolo che avevo scritto era lì il focus sulla questione. Un alto commissario che però rappresenta se stesso, la vittoria dello Stato italiano che mette lì una persona che però oggettivamente non è che ci stia facendo fare, non è che noi ci abbiamo guadagnato granché, ma che fondamentalmente poi se c'era da decidere le cose serie vanno i ministri degli esteri. Su questo chiudo, spero che vi siate fatti un'idea diversa o particolare di Europa, e vi ringrazio di essere venuti qui.